now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Sit down in the row. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Un anno e mezzo di Snowboarding Radio, non abbiamo ancora capito chi sia questa Lola, vero David? Giusto, chi è Lola? Ma chi lo sa? Ciao, benvenuti su Radio Sandona, 102.200 www.radiosandona.it da Francesco e da David. Ciao a tutti, buonasera. Come stai? Alla grande. Tutto bene? Te Francesco? Bene, bene. Si inizia a sentire un po' il numero di puntate sulle spalle. Difatti, ormai siamo diventati esperti. Sì, ormai chi ci ferma a noi, no? Non si ferma più nessuno. Poi ultimamente proprio ci sprechiamo con puntate extra europee, ormai l'Europa non la vediamo più da un bel po' di puntate. Vorremmo scoprire dove siamo in questa puntata, quindi lanciando la prima traccia. Lanciamo quindi Godan Project dei Santa Maria del Buen Aire. Buenos Aires. Davide, dove possiamo essere con questo ritmo? Diciamo, lo svegliamo? Dai, vai. Siamo in Argentina. Eh beh, o alla sagra del paese oppure in Argentina, no? Però, dai, Argentina dove? Dove siamo in Argentina? Buenos Aires, dai. Lì. Dove possiamo essere? Noi andiamo subito diretti alle capitali, vero? Giusto. E quindi direttamente a Buenos Aires. E questi erano i Gotham Project, un progetto di rivisitazione del tango, no? L'abbiamo sentito, e qualcuno forse ci ricorderà questa canzone per essere la colonna sonora del film Shall We Dance, parte della colonna sonora. Gotham Project, tra l'altro, che deriva dall'inversione della parola tango, cioè tango, Gotham, e poi magari sta cosa la chiediamo al nostro ospite, dovrebbe essere qualcosa di abbastanza comune nello spagnolo rioplatense che si parla da quelle parti. Allora, possiamo chiederglielo presentandolo. Stasera abbiamo come ospite Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, ciao. Benvenuto, come stai? Grazie, tutto bene, grazie. Ecco, a chiederti allora perché questo mescolamento di queste canzoni. E se è vero, tra l'altro, che lì si parla così, invertendo le sillabe. Sì, principalmente a Buenos Aires sì, si invertono molto le sillabe delle parole. Sì, questo a volte è anche difficile capire qualcosa, ma quando si prende il ritmo poi si riconoscono, poi si collegano. E oltre al ritmo ho preso anche l'accento. Questo, eh? Si sente, sì. Hai preso velocemente l'accento, dicevamo. Si sente un po' la cadenza spagnola. E oggi, David, parliamo un po' anche di sogni, no? Eh sì. Un po' di sensazioni, queste cose qua, giusto? Giusto. Passiamo quindi al terzo grado? Ma sì, dai, andiamo. Inizio io? Inizia pure. Allora, Lorenzo, funziona così. Sono delle domande secche, botta e risposta. I nostri ascoltatori già lo conoscono perché lo facciamo un po' in quasi tutte le puntate. Quindi iniziamo con la tua età. 29. Di dove sei? Filottrano, in provincia di Ancona, nelle Marche. Mm-hmm. Da quanto tempo sei in Argentina? Gennaio del 2011, sono 15 mesi. Hai vissuto sempre a Buenos Aires? Sì, in questo tempo sempre a Buenos Aires. E sei partito da solo, con altri? Sono partito da solo, solissimo, sì. Che fai lì? Qui da ormai un anno lavoro in un ristorante italiano. Facevi già questa è la mia attività principale, diciamo. E facevi già questo lavoro in Italia, avevi delle esperienze? No, o tutto nuovo? Mai lavorato in un ristorante, in una pizzeria o in un bar in Italia. È una cosa che ho iniziato a fare qua per è quello che ho trovato, diciamo. Ho bisogno di lavoro e... Quindi città nuova, lavoro nuovo, si è sconvolto, sì, la vita. Sì, sono cambiate molte cose, dalla grandezza della città, dal lavoro, dal tutto. Una curiosità, hai imparato a ballare il tango? No. Questo. Neanche ci ho provato. Quindi vuol dire che forse qualche speranza già ne ho. E per il futuro invece che programmi hai? Il futuro lo vedo qua. Lo vedo qua, nel senso che se penso alla mia vita l'anno prossimo, fra 3 anni, penso a Buenos Aires. Poi dopo, come in un breve tempo, ho pensato di andare via all'Italia, venire in Argentina, tutto può succedere. Però al momento questo è il mio pensiero. Domandona, hai mai sentito parlare della chiesa maradoniana? Sì. Raccontaci un po'. No, non so. Attraverso dei film, non qui in città, nel senso, non ho mai affrontato l'argomento con altre persone. Non so bene di cosa. L'avevo sentito parlare già in Italia, diciamo, non è che. Non sei stato battezzato ancora alla chiesa maradoniana? No, non so. Perché funziona così, cioè questa chiesa in cui sostanzialmente Maradona è Dio, e proprio molto umilmente, e il battesimo ti lancia una palla, tu devi segnare di mano, proprio a rovescio, come fece Maradona, da lì sei battezzato nella chiesa Battesco. Maradoniana. Magari adesso lancerai una moda che... Sei adepti anche in Italia. Vabbè. Bene. Dai, insomma, il terzo grado lo ha superato, insomma. Terzo grado è passato. Glielo potevamo fare in spagnolo perché secondo me gli viene più naturale. Forse a noi meno. Sicuro. Beh, lanciamo allora la traccia 2, l'azzurda con Pao de Negrita, Como el Rio. E chiediamo al nostro ospite di questa scelta. Ma l'azzurda è una banda qui di Buenos Aires, che io avevo conosciuto già in Italia, che avevano partecipato a un festival che organizzavo, che ancora organizzano i miei amici nel mio paese. Sì. Li ho conosciuti così, qua non sono molto famosi, poi con questa collaborazione con Paolo di Negrita. E niente, mi piace la canzone perché parla dell'incontro e del lasciarsi. Quindi l'hai conosciuto in Italia. Anche il titolo stesso, come il rio, al Rio della Plata, e dall'altra parte del fiume, la vita che scorre. Allora andiamo a sentirci. Andiamo a sentirci. Come il rio, tutto lo che passa sta pasándonos a tiempo, y solo una vez pasará, como el río. No mi debí più aspettare, salvati da questa parte del mare, io ti guarderò. Possa tu provare tutto senza me, e dentro un sogno migliore rinascere. Ogni giorno passa e va, rubando il nostro tempo, tutto scorre e passa, come il fiume. Tutto questo tempo sta il nostro tempo, che passa e non ritornerà, come il fiume. Pau dei Negrita, dovunque c'è un po' di America Latina, lui si infila dentro. Ogni volta si ficca dentro. E beh, allora dai, andiamo un po' nell'argomento della puntata. Abbiamo detto che, insomma, parliamo di sogni, parliamo un po' di inseguire un sogno, una sensazione, che mi sa che è un po' quello che ha fatto Lorenzo. Infatti noi, Lorenzo, non ti abbiamo chiesto perché sei partito. Ce lo dici con calma adesso? Sì, bene. Perché il motivo principale per cui sono andato via è perché volevo provare un'esperienza all'estero, ovviamente. E perché l'Argentina, questa è una domanda che non ha una risposta ben precisa. È stata una sensazione più che altro. Vado, dove vado? Vado a Buenos Aires. Non c'ero mai stato prima. Quando sono arrivato la notte del 24 gennaio l'anno scorso, quando sono arrivato, è stata la prima volta e già ero deciso a vivere qua, a fermarmi. Non sono andato via dicendo a mamma e papà vado 3 mesi, vado 1 mese, vado in vacanza, ma vado a vivere a Buenos Aires, nonostante non la conoscevo. Magari non la conoscevo se non per un film o per un libro, però, o per argentini che conoscevo in Italia. È stato un po'... inseguire un sogno che non, ma che non aveva bene un'immagine, diciamo, non sapevo bene quello che era, è stato un po' un salto nel vuoto. Poi col tempo mi sono reso conto che ho avuto o fortuna o intuito o quella sensazione era vera, perché in fondo io qua sto bene, mi sono trovato bene. E come ho detto prima, se penso all'anno prossimo, tra 2 anni, penso ancora qua. Beh, quindi è incredibile come tu avessi questa sensazione e ci hai preso e sei partito, no? È una cosa abbastanza strana, no, David? Infatti, ma il primo impatto che quando sei arrivato è stato una cosa che ti aspettavi? Ci sono delle cose che pensavo e che ho trovato. La confusione sudamericana, nonostante Buenos Aires è la città sudamericana più occidentale sicuramente, più che somiglia di più all'Europa. Mm-hmm. Non gli assomiglia molto, ma in confronto a tutte le altre città del Sud America sicuramente assomiglia di più. Bene, anche l'impatto con una metropoli di non so quanti milioni di abitanti, che io vivevo in un paese di 10.000 abitanti e ora mi ritrovo a vivere in un edificio con 10.000 abitanti, quindi non è solo Buenos Aires in se stessa o l'Argentina in se stessa, ma anche l'impatto con una metropoli che non avevo mai avuto prima, nel senso al di fuori di un viaggio o di una vacanza. Certo. Avevi già viaggiato in Sud America? No, in Centro America sì, in Messico e a Cuba, però per 2 settimane o per un mese, non con l'intento di un trasferimento. Questa è stata la prima volta in cui ho pensato vado per rimanere. Secondo me, David, Lorenzo è una di quelle persone, ce ne sono diverse in Italia, per un periodo lo sono stato anch'io, letteralmente innamorata del Sud America. Mi sbaglio, Lorenzo? No, è vero, non ti sbagli. È stato sempre sì, più che amore io lo chiamerei fascino, nel senso che sono stato sempre affascinato dal Sud America e dai paesi latini in generale. Anni fa avevo pensato di andare a vivere in Spagna quando c'è stata tutta l'onda, molti ragazzi italiani sono andati a vivere in Spagna. Sì, sì. E poi dopo questa cosa mi è rientrata. Arrivato a 28 anni, l'anno scorso ho detto se devo fare il salto lo faccio più grande. Mai in vita mia avevo pensato di andare in Thailandia e sempre il sogno era il fascino che avevo per un paese sudamericano o centroamericano. Buenos Aires forse è anche, oltre alla sensazione che mi dava, anche forse la città che in questo momento mi dava qualche possibilità in più di farcela. C'è bene, anche questo. Bene, quindi tutto. Hai deciso di trasferirti, giusto? Una volta per tutte. Noi ricordiamo nell'ultima puntata che abbiamo parlato quanto sia importante nell'organizzarsi, ecco, e prepararsi bene al trasferimento. Quindi di organizzare un po' tutto. Quindi quello che ti chiediamo è che una volta che hai capito che volevi andare in Argentina, ti sei organizzato, comunque hai preso del tempo per organizzarti oppure sei andato allo sbaraglio? No, un po' di organizzazione. Sicuramente mi sono organizzato, sì, nel senso che ho deciso di andare a ottobre, ho preso la decisione definitiva, ho comprato il biglietto e poi per 3 mesi ho cercato dei contatti o delle più informazioni possibili per preparare eventuali documenti, per preparare eventuali, no itinerari, però luoghi dove andare a cercare. Certo, cercare, certo. Anche il lavoro, perché la prima cosa che mi ha dato preoccupazione era la ricerca comunque di un lavoro, perché non potevo stare a spasso, diciamo, tra virgolette, per 2 o 3 mesi, ma poi, cioè, io in Italia lavoravo e ho lasciato un lavoro che avevo, che era, nonostante la crisi, relativamente tranquillo e sicuro. Cioè, lasciavo qualcosa di relativamente certo e sicuro per un qualcosa che non aveva. Certo. Un bel salto nel vuoto. Sì. Quindi potremmo diventare la mascotte o il simbolo del nostro programma, Lorenzo, infatti, no? Cioè, forse è quello che più di tutti finora si è lanciato. È vero. E dopo è stata una pazzia, questo è sicuro. Una bella pazzia, ma una pazzia sicuramente. Una locura. Sì, una locura, una locura. E dopo 15 mesi la pazzia ne valsa la pena? Ne valsa la pena, ho visto la mia vita è cambiata tanto sicuramente per un sacco di motivi, ma ho visto anche un crescere, nel senso che quello che io pensavo l'anno scorso prima di partire ora non è stabile, non è peggiorato, ma è aumentato. Senso, sono ancora più convinto di aver fatto la cosa giusta. Ho visto dei miglioramenti, ho visto che tutto è possibile nel bene e nel male, e poi mi rendo conto che qua è un posto dove ancora è possibile sognare. Ah sì, questa cosa ce l'hai scritta anche... È sicuramente instabile, nel senso che domani mattina può succedere qualcosa di stupendo e può succedere anche un patatrack. Allora facciamo così, Lorenzo, mandiamo una canzone, un'altra che ci hai consigliato tu, e poi ci racconti, proprio rimanendo, no, nell'argomento dei sogni, perché lì in Argentina ancora si può sognare. Ci hai suggerito Un beso e una flor dei Los Fabulosos Cadillacs. Come mai? Sì, e questa per lo stesso motivo dell'altra, come il Rio dell'Assurda. La partenza, il lasciarsi e la speranza di rincontrarsi un giorno. Andiamo a sentircela allora. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, lleno tus recuerdos, partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Oh, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al despidiendo, pero a pesar de la distancia te llevo muy dentro. Bentornati su Now Boarding Radio. Oggi siamo in Argentina con Lorenzo, che ci spiegherà ancora perché è possibile in questo posto realizzare un sogno. Sì, io sono partito con un sogno e ho di vivere qua, nonostante tutte le difficoltà che qua ci possono essere nel trovare una casa, nel trovare un lavoro. Io ho avuto tanta fortuna, nel senso che e ancora seguo ad avercela, che penso a un futuro qua. Qua è impossibile trovare una casa se non si ha una qualcosa che qua si chiama garanzia, una per ho capito la possibilità di costruire qualcosa. Trovare qualcuno che mette una specie di ipoteca nella sua casa di proprietà per poi darti questa garanzia per poter affittare. Io qua non conoscevo nessuno, né parenti né amici, eppure ho trovato delle persone che sono state disposte ad aiutarmi in questo senso. Cioè delle persone che hanno garantito per te in pratica? Esattamente, io vivo in una casa con un contratto regolare e con una garanzia. E qua è molto difficile trovare, è molto molto difficile se non si ha parenti stretti o amici a disposizione che possono mettere una cosa così grande in gioco. E questo perché tu hai una faccia rassicurante da bravo ragazzo o perché sono particolarmente gentili loro? Sinceramente non lo so, fatto sta che io sono arrivato il 24 gennaio, il 24 febbraio già avevo a disposizione l'appartamento in cui vivo tuttora. Ho un buon rapporto con la signora che ha messo la garanzia e i titolari dell'appartamento. È una cosa, una persona che viene dall'estero, un immigrato qua, per trovare questo è veramente, veramente difficile. Ho capito. Nel senso del lavoro, qua il lavoro c'è, si vede, ma per un immigrato la stessa cosa, senza documenti argentini, trovare qualcuno che sia disposto a fare questo tramite non è poi così facile. Ho trovato anche questo, e sono cresciuto nel mio lavoro, quello che anche dal punto di vista economico lo posso dire, quello che guadagnavo l'anno scorso non è quello che guadagno tuttora. Quindi una possibilità di crescere anche? Sì, esattamente, sì, proprio come soddisfazione personale, cioè oggi faccio questo, domani faccio qualcosa in più. Bene, bene. Meritocrazia. Un'altra cosa, ci avevi scritto che oltre ad essere un paese che ti permette di sognare, non è un posto per impazienti? No, assolutamente, perché bisogna avere pazienza per qualsiasi cosa. Per prendere l'autobus, per prendere la metropolitana, ma queste sono cose che sicuramente succedono in tutte le metropoli del mondo, non è una cosa riferita particolarmente a Buenos Aires sicuramente. Però bisogna fare un sacco di fila per pagare una bolletta, si potrebbe fare un'ora di fila per pagare una bolletta della luce e scoprire all'ultimo momento che non si può perché c'è un meccanismo, un sistema dei computer, il collegamento che cade, che non funziona. Può succedere che nel mio tramite migratorio, per esempio, sono stati persi i documenti, ho dovuto fare un ricorso, dovevo avere i documenti argentini già da 10 mesi e ancora non si vedono. Ce l'ho i documenti, però non sono il punto finale dove io dovevo arrivare. Vabbè, ma perché noi ci siamo anche abituati a queste cose in Italia, no? Ma sì, però si perde, si rifà tutto. Ogni volta che succede qualcosa di questa, una sfortuna, una piccola sfortuna, la risposta è sempre qui siamo in Argentina. C'è avere tanta pazienza al supermercato con le monete, perché è difficile trovare monete, anche se adesso negli ultimi anni la cosa è leggermente migliorata. Addirittura. Sì, la moneta non è un problema di soldi, ma della moneta stessa. Nessuno, a cui ancora molti posti danno il resto con caramelle e pazzesco, colatini, perché non ci sono monete. Ti guardano proprio male. Cioè, se non hai il cambio, se non hai i soldi giusti, non ti vendono le sigarette o quello, qualsiasi cosa sia. Sempre c'è questo problema. Ritornando un po' alla zona geografica. E sì. Al tuo appartamento a Buenos Aires, in che zona è? In che zona si trova? Io sono fuori da Capital Federal per diciamo 100 metri, sono nella parte sud della città, a fianco della Boca e di Barracas. Sono relativamente in provincia, nel senso che c'è un ponte che fa 100 metri e sono Capital Federal. Capital Federal praticamente è tipo la città autonoma, qualcosa del genere? Esattamente, esattamente. Sì, io non pago le tasse nella città autonoma di Buenos Aires, le pago nella municipalità di Avellaneda, che è il luogo dove vivo. è periferia, non è periferia nel senso che è tutto attaccato con la città, non c'è un punto di stacco, però è periferia. Il mio edificio è un edificio di 25 piani, è l'unico insieme agli altri 5 che fanno parte del complesso che sono così alti. Qua è tutte case basse, non c'è la notte, non c'è quello che si trova, quello che c'è in città, non ci sono i negozi, tabaccai aperti, aperti come. Invece lavori in centro, il ristorante dove lavori si trova in centro? Lavoro, non è il centro della città, perché il centro lavoro nel quartiere di Palermo, è il centro notturno della città, diciamo. Ah, ok. Il centro città la notte è diciamo morto, nel senso il centro vive di giorno, con uffici, banche, cose del genere, ma la notte non è vivo. Quindi la notte il centro di Buenos Aires, la notte è sicuramente Palermo, che poi si suddivide in piccole parti, come Palermo Hollywood, Soven, adesso ora hanno preso tutti i nomi strani, però sì, Palermo dove ci sono tantissimi ristoranti, tantissime discoteche, e io lavoro in un ristorante italiano lì, è una pizzeria, ci vuole un'ora da qua da dove sto io. E tra tutte le cose che ci hai descritto, comunque, che ti piace fare, cosa è che ti piace di più a Buenos Aires? La cosa che mi piace di più a Buenos Aires è camminare per strada e respirare l'aria di Buenos Aires. In che senso? La mescolanza della gente, l'amabilità delle persone, nonostante quelli che vivono fuori di Buenos Aires, nel cosiddetto interior, dicono che i portegni, i cittadini di Buenos Aires, sono antipatici, frettolosi. Io ho incontrato tutte persone che amabili. I portegni sarebbero gli abitanti proprio del centro? Sarebbero gli abitanti di Buenos Aires, sì. Ah, okay. Portegno viene dal porto, sì. Portegno è l'abitante di Buenos Aires. Ci sono molti stranieri anche che si trasferiscono lì, o recentemente intendo, che sono spostati a Buenos Aires, oppure tu a chi consigli magari di trasferirsi lì? Ci sono moltissimi stranieri. Nel quartiere dove lavoro credo che un 30% sono stranieri. Ci sono tante persone che vengono a studiare qua, cosa che anni fa non succedeva, che poi decidono di fermarsi, perlomeno se vengono a studiare per 3 mesi si fermano un anno o fanno di tutto per fermarsi. Addirittura? Sì, io parlando con gente più grande di me, così mi dicono che 10 anni fa qua non c'erano stranieri, o perlomeno era una piccola percentuale. Non stranieri europei, perlomeno. E ora è pieno. Io tutti i giorni incontro un italiano. O in un bar, o dove lavoro, o nell'autobus, incontro un italiano. Un italiano che è venuto ora qua, non un italiano figlio di italiani. Sì. Bene, lanciamo quindi la prossima traccia, per il Sweet Vagarabat e La Ribera. Es una cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarnos un mes más. El sexo es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera ruegan a que se las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. Algo no quede la sangre que el viento no se llevó. Vean, todas las noches con vean, cuentan historias que ni el más cruel, cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber. Questi erano un gruppo di Avellaneda, proprio del quartiere di Lorenzo, i Bersuit Vergarabat, pronunciato abbastanza bene, Lorenzo? Sì, neanche io ancora. E, dicevi prima di, ok, quindi una città che probabilmente sta anche vivendo un po' una rinascita, un momento insomma abbastanza vivo, se ci sono tutti questi stranieri, di solito capita così. Dicevi molti italiani, invece volevo chiederti dei figli di italiani, cioè nel corso del Novecento milioni, credo, di italiani sono emigrati in Argentina, e quindi, non so, ne hai incontrati magari figli o nipoti di italiani? Sì, ogni volta che mi fermo a parlare con qualcuno o nell'ambito lavorativo, che vengono a mangiare con i clienti, chiunque persona mi chiede di dove sono, dico sono italiano, il 90% tira fuori: ah, mia nonna era di qua, mio nonno era di qua. E tante volte è curioso che escono fuori persone che vengono, hanno radici nei paesi vicino ai miei, nelle Marche. Ah, addirittura, sì. Sì, l'italiano vedo che è sempre, perlomeno per la mia esperienza, è molto rispettato. Ogni volta che qualcuno scopre che sono italiano, crea sempre molta curiosità. Non so, c'era un mio amico diceva che l'italiano è ancora, sarà sempre rispettato, perché sono venuti decenni fa con le valigie di cartone e ora hanno proprietà, imprese. Nel senso che hanno portato anche tanto benessere qua. Io hanno costruito molto. Non ho dati alla mano, non so verificarlo, però verifico tutti i giorni che sì, l'italiano è molto rispettato e amato. E si sente molto la presenza italiana a Buenos Aires? Sì, ci sono tanti posti che tra virgolette si vendono per italiani, cercano di richiamare un po' magari. Chiaro, di richiamare i luoghi italiani. Sì, c'è un collegamento forte tra i due paesi e sicuramente nella popolazione anche si sente. Sì, questa è una cosa che si sente anche dall'Italia, no? Un forte legame in qualche modo con l'Argentina, nonostante ormai siano passate insomma più di una generazione, ecco. Chiaro. Bene, quindi insomma anche ci confermi questa cosa che Buenos Aires sta quasi vivendo una nuova vita, no? Si sta anche dal punto di vista del fermento della città. Sì, ci sono molte persone, ci sono due parti, diciamo, che una parte che dice che domani finirà tutto e una parte che vede invece un futuro floreo. Non so quale sia la verità, so che fino ad ora è andata bene e spero che continui così. Che continui così, no? Certo. Beh, Davide, aggiungiamo anche Buenos Aires, allora, le eventuali mete. Beh, dov'è? Diciamo caldo, dove ci si può. Lorenzo, se ha qualche contatto, ha un suo blog da presentare magari ai nostri ascoltatori? Sì, ho qualche post. C'è un blog dove scrivo, che non gestisco, ma comunque dove scrivo, si chiama l'argentina.org. Come sottotitolo ha una soluzione sudamericana ai problemi degli italiani. È un gioco di parole, diciamo. Interessante. È un blog dove scriviamo in diverse persone e dove si parla di tutto, dalle cose più